Buonasera. Io credo di Buonasera. aver messo online tutto, che tutto funzioni. Ovviamente siamo le ribelli e qui con Molto me, ribelli con esatto, molto, e qui con me c'è un'altra voce, altre voci al plurale. Sì, qui siamo da Napoli con Furore. Maya è un ospite speciale, Jonathan. Ciao, buonasera a tutti. E niente, prima di iniziare, diciamo, a parlare di questa puntata, vorrei ricordiamo i canali. Ah, intanto direi che prima bisogna un po' annunciare l'argomento, il titolo di questa puntata, che non ci dimentichiamo sempre. Cioè, è proprio una delle cose che non facciamo mai e ci ricordano tutte le volte di fare. E quindi. Beh, ma questo perché noi sappiamo che i nostri ascoltatori sono attenti Ovvio. e non vedono l'ora. Poi, cioè, il titolo di oggi era così fico che non c'è neanche bisogno. L'eteronormatività è un mediocre concetto coloniale. Ma sai che io c'avevo il telefono in mano pronta per leggerlo perché è lunghissimo e quindi mi sono preparata così. Però meno male che c'è Vai. Maya. Beh, ma perché, infatti, prima ricordiamo i canali e poi parleremo anche delle motivazioni di questo titolo. Ok, quindi altra bella figuraccia perché adesso Maya mi dovrà aiutare a ricordare i canali. Qua siamo tutte e tutto molto sul pezzo Sempre, proprio. comunque. Però è questo che diciamo piace ai nostri ascoltatori, quindi va bene così. Allora, come iniziamo? Allora, iniziamo. Dai più mainstream, Vai. Instagram, le tratto basso ribelli tratto basso zam, Sì. poi Facebook Radio Z AM, dove appunto viene pubblicato tutti i lunedì il palinsesto. E poi c'è anche Telegram, che adesso Maya canterà Che addirittura. per noi, diciamo, Certo. per prendere tempo, ma è proprio Sì, qui. aiai e brazzo, come al solito. No, per dire appunto che non abbiamo un solo canale Telegram da dover seguire, ma due, perché in una c'è la chat broadcast di Radio ZM e la seconda invece è proprio la chat dove ci potete scrivere durante le dirette, farci domande, dirci che siamo fichis, Esatto, insomma, come adesso volete. si è materializzata qui davanti a me e potete su Telegram cercare, adesso sbaglierò, vabbè, facciamo finta che non sbaglio, Radio ZAM trattino basso chat. Yes, è proprio lei, è proprio Proprio, lei. vabbè, infatti nelle chiacchiere stavamo pure dicendo che ovviamente qua intanto la musica va bene, cioè è finita. Non c'è problema. Ok. Vabbè, ci sono le nostre voci suadenti e flautate, che ci frega. Beh, cioè io sono molto arrugginita e da parecchio tempo che non sono più in radio, quindi devo ancora riprendere tutta la manualità e Ma bene. DJ Utopia, per te è come andare in bicicletta, cioè una volta che inizi. Insomma, Intanto l'accento era sulla I. E poi comunque. Utopia. E poi io sto cercando di portare, di entrare nelle redini, diciamo nell'esperienza di riprendere bla bla bla bla. Insomma, grazie le DJ, Grazie Lady sei J, grazie Lady meravigliosa. J. E Ti quindi, salutiamo, ci manchi. sì, moltissimo. E non vediamo l'ora di rivederti. Quindi. Quindi dicevamo, l'eteronormatività è un mediocre concetto coloniale. Questo in realtà è un poster trovato, cioè che si vende online sul sito di Unapologetic Street Series, che un po' sarebbe il nostro Cheap Festival alla bolognese, però in realtà è in salsa USA, quindi ci piacerebbe più perché è anglofono. E appunto è la traduzione letterale di quello che è il titolo di oggi, della puntata di oggi. Questo cosa vuol dire? Cioè, stiamo parleremo quindi di eteronormatività e colonialismo, ma in salsa italiana. Perché ci piace? È meridionale È perché ci piace ancora meridionale, di più, perché ci piace direi. ancora di più. Mi Quindi, a correggono dalla regia. proposito di questo, direi che possiamo riscaldarci su queste ultime parole e ascoltare delle note importanti. Per esempio la nostra sigla. Sì, che l'abbiamo già messa. Messo, scusate. Vabbè, La seconda sigla, esatto, la seconda sigla di questa giornata. Esattamente, quindi io lascerò poi a voi introdurla, cioè post-introdurla, diciamo, e se vi va, o comunque dire, spendere due parole, visto che questa canzone è stata consigliata. E adesso ascoltiamo. Quindi siamo ancora qui, abbiamo ascoltato, vabbè, io dirò, abbiamo ascoltato Pino Daniele e lascerò all'ospite l'onore di dirci leggere il titolo. Esatto, il titolo della canzone. Allora, il titolo della canzone è Killer è un buono guaglione, e appunto è un bravo ragazzo. E appunto, questo qua è una canzone dell'84. E il brano sostanzialmente si ispira alla storia del primo Femminiello, appunto Femminiello, ora parleremo nella puntata, una figura abbastanza mainstream, però approfondiremo un attimino il concetto, quindi no spoiler, che appunto dichiara apertamente il suo essere Femminiello. Quindi inizia da bambino a giocare vestendosi appunto come vestiti di sua sorella, il ragazzo della sorella scopre appunto la vera sessualità che lo porta a desiderare di essere donna. Infatti dice Killer è un buono... Scusa, potresti leggere in napoletano, grazie, caro. Killer è un buono guagliona, fa vita e notte sotto a un lampione. E Killer? Killer è un buono guagliona e vuoi essere una signora. E infatti si vorrebbe chiamare Teresa. Quindi per avere i soldi per fare appunto l'intervento di transizione, come succede spesso purtroppo, finisce anche per diventare sex worker e diciamo all'interno di questa canzone si parla del fatto che il desiderio di questa persona, di questo femminello, è appunto seguire quel sogno dell'eteronormatività, quello di sposarsi, poter essere moglie, poter essere avere dei figli, eccetera eccetera. E infatti proprio di eteronormatività e colonialismo che si parlerà in questa puntata. Allora, sempre nel filone di vorrà rendere agibile quella che l'Accademia Inglese ci propina con tante parole vezzose. Molto international. Esatto, prendiamo spunto da delle riflessioni che arrivano dal saggio di Carla Rosinski, che si chiama Disrupting Cis Heteronormativity and Interrogating Whiteness, all'interno del quale appunto si dà una panoramica di quelli che sono i focus che le femministe indigene native appunto puntano, cioè danno sulla connessione tra colonialismo ed eteronormatività. Allora, partirei da quella che è la definizione data all'interno dello studio di eteronormatività. Quindi cis eteronormatività si intende qui per descrivere l'attuale sistema di oppressione che combina cisgenderismo ed eterosessismo, che sono intrinsecamente razzisti, classisti e abilisti. La cis eteronormatività è direttamente legata al capitalismo e alla mercificazione dei corpi per il profitto che sostiene lo Stato nazionale. È anche direttamente collegata alla colonizzazione occidentale, alla sovranità statale, alla formazione, controllo, dei cittadini e della stessa cittadinanza. Questa è, diciamo, una prima definizione. Ok. Allora, gli studi... Leggera, soft. Diciamo che qui appunto fa anche riferimento a quella che poi in accademia viene chiamata la ruota della dominazione, ed è un fichissimo grafico che poi ovviamente posteremo sui nostri canali social, in cui si fa chiarezza su come il colonialismo sia intrinsecamente collegato al concetto di suprematismo e capitalismo, e come ovviamente a loro volta suprematismo e capitalismo siano interconnessi. Questo perché il suprematismo si basa sulla supremazia bianca, sulla supremazia dell'uomo, ovvero il patriarcato, e sulla supremazia dell'essere umano. Quindi da qui derivano tutto i genocidi, schiavitù, il lavoro invisibile, ovvero il lavoro di cura, il femminicidio e l'ecocidio. Ovviamente alla schiavitù è direttamente collegato il lavoro, cioè lo sfruttamento del lavoro, direttamente collegato ovviamente al capitalismo. Il genocidio è collegato al capitalismo per la spazzatura di risorse, appunto, e il lavoro invisibile, appunto, sappiamo quanto è collegato al capitalismo, perché a casa ci deve essere qualcuno che deve tenere la situazione, deve essere l'angelo del focolare, come gli piaceva di al nostro amico a testa in giù, e appunto, quindi uno schema molto diretto e molto chiaro. Tuttavia, discostiamoci un attimino da questo schema e ritorniamo a buffo su quella che è la teoria accademica. Allora, nello studio di Rosinski si parte da, per poter spiegare la connessione che c'è tra eteronormatività e colonialismo, si parte dalla teoria di Cripp. La teoria di Cripp si trova nella precisa intersezione tra quella che si può dire la teoria queer e gli studi sull'abilismo. E quindi si sfida ulteriormente la normatività attraverso l'essere obbligatoriamente abile, ovviamente attraverso gli studi sull'abilismo. Ovviamente l'essere obbligatoriamente abile si maschera come l'ordine naturale delle cose. Quindi la teoria di Cripp si basa sul concetto di eterosessualità obbligatoria, per includere ed esplorare la corporeità obbligatoria stessa. Quindi il concetto di eterosessualità obbligatoria delinea che le relazioni eterosessuali siano l'unico accordo sociale che si possa ritenere accettabile. Quindi, queerness e disabilità non sono così inseparabili, perché questi sistemi obbligatori sono contingenti l'uno all'altro. Soprattutto questi sistemi sono inestricabili dal capitalismo, perché le priorità del capitalismo sono guidate dal mercato e hanno immaginato e composto identità fisiche e sessuali. Quindi, oltre a un'analisi che deve essere fatta su quello che è il materialismo del capitalismo e su quanto intrinsecamente siano connesse la normatività dei corpi in senso di abilismo, in senso di sessualità e quindi anche di produzione e riproduzione di quello che è il capitale umano, si arriva a concentrarsi anche sull'inclusione a livello locale dei colonizzati all'interno del sistema del settler colonialism, ovvero del, come come posso dire, tradotto a barbara maniera, il colonialismo di insediamento, quello del trailer, per capirci. Ciao, ciao. E quindi, in linea con diciamo la sfida alla normatività, alle connessioni del capitalismo, il colonialismo di insediamento si riferisce al processo per cui i coloni non nativi occupano un luogo per insediarvici in maniera stabile e tentano di cancellare e assimilare i nativi, chiedendo loro di seguire la mentalità, la morale e l'economia del mondo dei coloni. La letteratura negli studi indigeni e nella teoria femminista nativa usa il termine di eteropatriarcato per descrivere i sistemi di dominazione attraverso il sesso e il genere che sono impiegati dai colonizzatori nelle terre native. L'eteropatriarcato coloniale ridefinisce, secondo Arvin, le forme di espressione, i desideri e le relazioni affettive per eliminare le culture dei nativi, per controllare le popolazioni razziali e assicurare una società composta unicamente da coloni bianchi. Quindi il potere eteropatriarcale del colonialismo bianco, suprematista ovviamente, ha prodotto sia le etichette di identità non normate che quelle normate che ad oggi ancora usiamo. Infatti gli studiosi e gli attivisti indigeni che fanno si posizionano all'interno di una critica dell'eteropatriarcato, includendo la riflessione su quest'ultimo come una semplice e appunto mediocre eredità coloniale. E appunto questo costituisce come un elemento cruciale per le lotte di decolonizzazione. Quindi, in altre parole, quello che dicono gli studiosi nativi e le teoriche femministe native è che l'eteropatriarcato non è limitato al suo uso nella colonizzazione, ma è stato impiegato come una strategia all'interno della società e della cittadinanza, sia prima che dopo il processo di colonizzazione, perché questo succede appunto ancora ad oggi. Cioè, questo quindi, per dire che non è solamente un processo politico, come ben sappiamo, ma è proprio un processo ben più radicato, ben più profondo. E di quanto esatto, non venga anche detto così. Assolutamente, perché in primo luogo è un processo di costruzione della realtà, mm-hmm. è un processo di costruzione di categorizzazioni. È il momento in cui tu categorizzi e definisci la narrazione attraverso cui descrivere un qualcosa, stai costruendo una struttura, stai costruendo un bias, una postura attraverso cui vedere un determinato mondo, cioè il modo in un determinato modo. E che imponi poi sulla popolazione del territorio. Esatto, quindi cosa succedeva? Nel momento in cui tu bianco arrivavi, tu bianco eteronormato occidentale dalla cultura cattolica, dopo le crociate e tutto il resto appresso, arrivavi nel popoli, cioè nei luoghi colonizzati e vedevi che questi popoli avevano una tipologia di assetto sociale, di relazione, ma anche di sessualità che completamente si distingue da quello che tu sei e tu ti devi porre, ti devi costruire come razza dominante, inevitabilmente dovrai costruire la narrazione che descrive l'altro come un qualcosa che non è normale, perché sei tu la normalità. Il bianco è il normale, bug di lingua. L'eterosessualità, ecco, perché mi veniva sempre l'eteronormatività, che non ci piace. L'eterosessualità è normale, la Chiesa cattolica è normale, cioè, quindi è questa roba qui che si inserisce all'interno di questa tipologia di narrazione. Quindi sono narrazioni più, scusami Maya, cerco un po' di tradurre un pochino, cioè sono narrazioni che si impongono, che circolano con più potere, se vogliamo. Sì, perché si impongono. Certo, perché si impongono. Non è, la questione è che non hanno più potere di per sé, è che hanno quella che Foucault chiama la violenza epistemologica, perché hanno il potere di narrare la storia, hanno il potere del punto di osservazione, perché nel momento in cui sono io a descrivere qualcosa, sono io che ho il potere di descrivere l'altro. Comunque hai citato la persona di cui sono innamorata. Foucault? Sì. Bambi, manderò anche a te un... Sta proprio qua anche nel prossimo intervento. Arriva. Madonna. Ma ti manderò un meme. Fa riguardo già caldo Foucault qui dentro. Yes. Quindi, in ultimo, e non proprio in ultimo, però per quasi concludere, per poter sottolineare quello che è la connessione tra il colonialismo e l'eteropatriarcato, Il colonialismo di insediamento, quindi, no, come, scusa, questo qua lo dicevo prima, l'attenzione sul colonialismo di insediamento e lo studio della cultura del dominio che appunto diversifica nativi da non nativi, anche se ovviamente in forme diverse. Quindi le studiose transfemministe indigene sottolineano come la sessualità dei coloni bianchi sia stata impiegata come uno strumento fondamentale della colonizzazione. E però il suo origine e il suo uso non sono limitate alla colonizzazione stessa. Infatti le teoriche femministe indigene affermano che è intellettualmente e politicamente imperativo tendere ai legami della colonizzazione nello studio di genere e della sessualità stessa. Infatti in tutta la, come possiamo dire, siamo testimoni e fautrici della quarta ondata femminista decolonizzata e postcoloniale, cioè il postcolonialismo, la questione decolonizzatrice non è che non si pone nelle nostre, nei nostri prerogativi politici. Non è un caso che stanno fiorendo anche all'interno dei vari collettivi dal basso tutta una serie di riflessioni anche sul posizionamento, l'avvicinamento, anche la traduzione di Belux ha fatto tanto, infatti ha investito qualsiasi area che vagamente si sia interrogata su determinate cose. Quindi quello che si, quindi quello che dicono è che come cioè come teorie femministe noi bianche ci dobbiamo porre l'imperativo, cioè da non nativo e da persone bianche il ruolo è quello di contribuire alla critica continua su quella che si può chiamare la denaturalizzazione del colonialismo di insediamento e non nello di sviluppare o dettare delle strutture alternative. Quindi e il posizionamento del ruolo del colono bianco è centrale per una critica sostenuta di decolonizzazione e denaturalizzazione degli indigeni, e perché qua pone l'interrogativo sulla bianchezza. Quindi la necessità di interrogare ciò che viene chiamato da Rachel in un saggio del 2013 l'ascendenza della bianchezza è una questione che denota i molteplici modi in cui la condizione di essere bianco e di godere di privilegi nazionalisti di quella stessa bianchezza viene fatta sembrare neutrale ed invitante o inclusiva per le minoranze razziali, sessuali e di altro tipo. Essendo inclusi nella bianchezza una vasta gamma di popolazioni indigene, persone di colore e comunità queer hanno l'opportunità quindi di prendere parte dei processi di colonizzazione che espropriano proprio questi popoli altri a livello globale. Quindi qui appunto si parla di tutta la questione per cui l'omonazionalismo, la questione per cui allargando il bacino di autorizzazioni di essere, allargando il bacino di diritti a quelle persone che prima erano alla marginalità, sempre le si normativizza, perché gli si dice ok, tu puoi esistere perché gli diamo il diritto a fare questa cosa qui, perché nello Stato di diritto tui riconosciamo il matrimonio. Perché il matrimonio è la normalità ed era un qualcosa a cui tu prima non avevi accesso. E quindi, in ultimo, si dice che si sostiene che allearsi con il femminismo non dovrebbe quindi richiedere il consenso all'inclusione all'interno di una più ampia agenda della bianchezza. E infatti crediamo, si legge nelle parole di Rosinski, che le teorie femministe native dimostrino che i femminismi, quando si alleano con altre cause chiave, hanno un potenziale unico per decolonizzare l'ascendenza della bianchezza in molti e in quasi tutti i contesti globali. E forse su questo farei partire una bella canzone. Direi di sì. E, abbiamo preparato, spero di pronunciarla bene, Marichia di Nugena. Yes. Yeah. Bene, ci siamo. Ci risiamo. Oddio, la musica. Welcome back. Ok, sì. Ok, ci hai dato un attimo di. Oddio, cosa sta succedendo? Ma ci siamo. Ci siamo, we are back. Ma io un po' occupata in questo momento, quindi cercherò di intrattenervi. No, io sono assolutamente multiskills, nessun problema. Allora. Adesso parliamo, per poter iniziare a parlare di questo secondo big argument di questa puntata, vorrei che tutti cercassero su Google fare le cose alla napoletana. Vi do 2 secondi per agli ascoltatori per poter digitare. Bene. Alla digitazione si legge: questa espressione napoletana significa alla buona, alla bella e meglio, alla come viene, riferito a tutte quelle azioni ed opere compiute senza formalismi e senza precisione. Quindi, scrive Luca Delgado, fare le cose alla napoletana è diventato un modo per intendere alla buona, alla bella e meglio, alla come viene, riferito a tutte quelle azioni ed opere incompiute senza precisione, come riporta puntualmente Google. Il meccanismo è sempre lo stesso: a furia di usare una parola in contesti sempre negativi, quella parola finisce con l'avere un significato negativo a prescindere dal contesto. Un po' come la parola cinese, che è diventata nel tempo sinonimo di scarsa qualità, come se i cinesi non fossero in grado di produrre cose eccellenti. Così si dice che la mozzarella di Napoli è eccellente, che so io, la sartoria di Napoli e il caffè di Napoli sono eccellenti, ma non il lavoro dei napoletani. Allora, questo piccolo estratto da questo post di Facebook, di questo ragazzo, compagno, insomma, non ci staremo qui a soffermare, mi ha fatto venire in mente un qualcosa su cui, diciamo, più volte abbiamo riflettuto, cioè il concetto di narrazione e di colonialismo all'interno però del contesto pizza e mandolino, come si suol dire. Nel senso, abbiamo la costruzione reale di un'alterità all'interno della nostra concezione mainstream, che è effettivamente quella del Sud Italia. Cioè, la questione meridionale non è così irrilevante nel 2022. Questo perché a tutt'oggi si vive di stereotipi che però non è che non migliorano la realtà della situazione in cui effettivamente si vive in determinate situazioni, soprattutto qui giù. Questo perché, a parer mio, come vorremmo dimostrare, il meridione e soprattutto alla città di Napoli, perché è stata era capitale di quello che era il regno borbonico, e quindi era la parte che doveva essere assoggettata, doveva essere una Addis Abeba se fossimo stati in Eritrea, e costituisce l'altro coloniale. E all'interno di questo filone di osservazione vorremmo porre l'attenzione su quello che viene descritto da tutta l'accademia gender fluid come il terzo genere, presente anche in Occidente e presente anche e soprattutto nella cultura partenopea. Quindi qui Jonathan sì. Silvestro, mia sorella, mio amico, mio tutto, ci anima, ci parlerà un attimino di quella che è la figura del femminello napoletano. Allora, sì, buonasera a tutti, prima cosa ancora. Per quanto riguarda questo mio intervento, io, vabbè, in generale vorrei introdurre appunto cos'è la figura del femminello napoletano e campano, e poi la mia riflessione in particolare riguarda se c'è una possibilità di continuità col mondo queer, e quindi diciamo la continuità tra il femminello napoletano e il mondo queer. Io ce l'ho una risposta, diciamo, e anche alcune studiose compagne hanno delle risposte, però poi appunto le vedremo verso la fine, niente spoiler. Allora, in particolare diciamo che il femminello, come diceva prima Maya, è una sorta di terzo genere, no? Io direi quasi una figura liminale, cioè appunto sospesa tra maschio e femmina, tant'è che si parla di una certa femminilità, quindi ci sono delle peculiarità e degli attributi tipicamente femminili, che però ci sono e si ritrovano in un corpo biologicamente maschile, in questo senso. E quindi saremmo portati tutti a pensare ad una persona transessuale o transgender. Però, in particolare, questa figura in realtà si riferisce, diciamo, ad un terzo genere a sé stante, tant'è che i femminelli napoletani non si definiscono gay, perché rivendicano appunto questa non appartenenza, e sono anche contro, diciamo, alcune rivendicazioni del mondo LGBT, e questo lo vedremo più tardi. Non si definiscono gay, esistono anche in altre parti del mondo, appunto come in America Centrale, oppure nel Messico ci sono i Muxi, appunto, oppure in India e in Pakistan ci sono gli Shira, e sono delle figure che hanno un certo contatto particolare, privilegiato col divino, con tutto il mondo ultraterreno, e questo perché? Perché sono radicate anche nella cultura popolare, no? Dice Porpora Marcasciano, una donna trans nonché presidentessa del MIT, Movimento Identità Trans, dice che appunto le femminelle non si sentono gay perché sono evocatrici e portatrici di un mondo vecchio che è percepito da loro perfino come quasi più antico di quello strettamente omosessuale. A questo proposito vi voglio citare, non so se avete visto Napoli Velata, appunto stiamo parlando di Napoli, di Özpetek, che si apre con una scena molto potente, ovvero quella del cosiddetto parto dei femminilli, recitata da un magistrale, Beppe Sala. E non quello che non ci piace, hanno quello scritto anche per Pesale di Milano, no? Appunto Rainbow Washing. E appunto il film si apre con questa citazione: questa è una storia antica, anzi eterna, da quando è nato Moon il corso solito sembra così. Riferito a che cosa? Appunto al parto dei femminilli, perché questa figura vive appunto di alcuni riti evocativi, simbolici, che possiamo, diciamo, definire come il parto dei femminilli, detto anche la figliata, che tendenzialmente viene dopo lo sposalizio, appunto, cioè le nozze tra specificamente appunto un femminillo ed un uomo cis gay. E ovviamente non c'è nulla di reale in tutto questo, sono soltanto dei riti. In più, parallelamente, ci può essere anche il pianto del morto, cioè quelle scene, non so se ce l'avete presente, praticamente del sud, in cui muore qualcuno e tutte le donne stanno a stracciarsi i capelli, a piangere, perché è morto, perché era bravo, esattamente, questo appunto però fatto dai femminilli. E questo perché appunto, come dicevo prima, sono proprio parte, diciamo, della tradizione culturale di questa città e di questa regione. Scusami se ti interrompo, ma proprio questa pratica deriva proprio anche dall'antica Grecia, c'era un'usanza molto forte e comune all'epoca. È straordinario che sia rimasta, anche se in maniera diversa, nel senso trasformata, però è quella, quella è l'origine, non so come dire, ed è, secondo me, è straordinario. Sì, sì, esattamente. Tra l'altro è una pratica che sta un po' scomparendo, e dopo vedremo anche perché, proprio perché, diciamo, il mondo dei femminili è molto in eclissi, come dice anche Porpora Marcasciano, appunto, non mi permetterei mai di dirlo io, da maschio cis. E appunto per dirla con alcune parole da femminile, ad esempio Bruno Buoniconti in un video intervista fatto da Repubblica dice: sono le nozze senza senso dei femminili. Ancora un Ciro Ciletta Cascina, famoso femminillo, dice: la bellezza di questa messa in scena è che non ha senso, c'è un femminile che non è femmina, un virile che non è virile, esiste un elemento di gioco, un modo di ridere sulla serietà delle convenzioni. Tra l'altro, questo giusto per giustizia e onore di cronaca, i femminilli quando parlano tra di loro si danno delle ale, si parlano la femminilla tipicamente, quindi usano il femminile, però tendenzialmente anche nel mondo accademico poi si usa il maschile, anche perché nella cultura popolare appunto c'è il femminillo. Non so chi ha visto Coso, e qui quindi entro già un po' nel merito delle analogie tra il mondo queer e i femminilli, non so chi ha visto Coso, immagino un po' tutto, almeno quello che stanno collegati. Quando prima dicevo che appunto c'è questa messa in scena, no? Un elemento di gioco, un modo di ridere sulla serietà delle convenzioni, è proprio perché ha visto Coso, ma ora vedremo anche storicamente da cosa prende ispirazione, c'è proprio il riprodurre in modo caricaturale tutto il paradigma eteronormativo. E questo viene fuori in particolare, diciamo, per varie ragioni. In primis perché c'è sicuramente un obiettivo dissacratorio, satirico, appunto, di quel mondo lì, eteronormativo, borghese se vogliamo, però dall'altra parte dobbiamo anche guardare un po' più a fondo, perché in realtà in questa roba si nasconde anche proprio l'aspirazione che non può mai concretizzarsi, perché il mondo, ad esempio, delle ballroom, a cui fa riferimento Pose, se ne parla benissimo in Paris is Burning, un documentario che vi consiglio, parte proprio da un elemento di classe che è cruciale, secondo me, il fatto che quelle ballroom, a quelle serate di voguing dove appunto si ballava, si cantava e ci si divertiva, andava a quei pezzi di società neri, latini, trans, drag queen, drag king, eccetera, eccetera, eccetera, soggettività eccentriche, effeminate, che anche per condizioni di marginalità economiche, quindi dal punto di vista di condizioni di vita materiali, non avrebbero mai potuto diventare una casalinga del ceto medio americano, che ovviamente in quegli anni c'era il boom perché c'era anche tutta quella narrazione, no, del sogno americano, eccetera, eccetera, oppure per gli uomini non sarebbero mai potuti essere dei ricchi manager di successo. E quindi da qui ad esempio la famosa categoria realness, no? Ovvero quando loro, cioè appunto queste persone, sfilavano imitando tutto ciò che nel mondo reale non avrebbero mai potuto avere. E quindi secondo me è già interessante vedere questa prima analogia. Appunto poi realness ovviamente fa riferimento al termine realtà, prima si parlava di Foucault, ritorno appunto un attimo per citare la sua, quella che lui chiama la politica della verità, cioè quel vasto insieme di relazioni di potere che stabiliscono preventivamente ciò che conta o meno come vero e che organizzano il mondo secondo determinate modalità regolari e regolabili. Questo che significa che la politica della verità, per dirlo anche alla Judy Butler, appunto filosofa femminista, appunto di riferimento, ci sono delle vite che non contano, che sono delle vite precarie, e quindi queste vite non potrebbero mai essere al centro dell'universo della politica della verità, non potrebbero mai accedere a quel mondo reale, a quei canoni che appunto, dice Foucault, regolano il mondo. E da qui, diciamo, c'è questa caricatura. Un altro elemento cruciale è quello della performance del sé, appunto stavo citando Butler, Judith Butler parla in particolare appunto dell'agire, no? Cioè del fatto che il genere in particolare è un costrutto sociale che non esiste naturalmente ontologicamente in modo a prioristico, bensì si, come dire, diventa quello che è e quindi si conferma anche egemone e dominante tutti i giorni semplicemente nell'atto di riproduzione stesso, cioè io tutti i giorni, io X, investo rispetto ai canoni maschili, eteronormativi, eccetera, eccetera, è dovuto al genere e così via. Però dice Butler come il genere si costruisce, come ce l'hanno costruito in secoli di oppressione appunto di questo sistema, però si può anche disfare, appunto lei dice to do e undo the gender in questo senso, ed è quello proprio che fanno esattamente i femminilli. Cioè, appunto, loro si mettono in una terza posizione, in una terza posizione appunto tra maschio e femmina e non vogliono essere assolutamente incardinati né nell'uno né nell'altro e conservano appunto gli attributi loro. È un fatto interessante che molti non vogliano nemmeno iniziare il percorso ad esempio da M to F nel caso appunto in cui nascano come maschi e quindi i femminelli proprio diciamo in questa esagerazione del sé dice appunto dicono chi diciamo l'accademia dicono proprio una performance del sé che continua. In questa performance del sé esagerata loro confermano appunto e costruiscono un genere a parte e quindi diciamo hanno anche questo potenziale molto sovversivo appunto di sfidare i canoni eteronormativi in questo senso. Arrivo ad un terzo elemento a cui stavo facendo anche riferimento prima, cioè quello di classe, che sicuramente è cruciale appunto nell'esperienza trans, anche nell'esperienza appunto dei femminili napoletani, che però è anche appunto cruciale nell'esperienza appunto queer, no? Per esempio prima facciamo riferimento al ballroom, quindi parliamo degli anni 60, nei diciamo gente del subproletariato, delle grandi città come New York e San Francisco, che esprimono però naturalmente una certa radicalità, un certo diciamo essere sovversivi, no? E questo proprio perché, per usare le parole di Colby Preciado, le uniche che avevano bisogno della rivoluzione per sopravvivere erano appunto i gay, le lesbiche effeminate, le checche, le drag queen, i drag king, non i maschi cis virili però gay che magari frequentavano bar diciamo dove la polizia non faceva le ronde perché nonostante fossero gay e quindi magari nella camera da letto facevano le stesse cose però rispettavano un certo decoro, rispettavano comunque dei canoni che non mettevano in crisi il patriarcato perché maschili, perché appunto magari potevano anche far parte della classe media eccetera eccetera. E quindi per parlare appunto dell'elemento di radicalità vado anche a Loredana Rossi, che appunto è una compagna diciamo che si definisce sia donna trans sia appunto femminillo con molto orgoglio, e cito per appunto arrivare a questo paragone un intervento che viene dall'Assemblea Nazionale di Nonna di Mino appunto del 2019 che si tenne a Napoli, in cui narrò un episodio, cioè quando negli anni 90, pieno governo Berlusconi, pieno di fascisti a Napoli, tutte le sere, i fascisti a Via Marina facevano le ronde appunto contro le sex workers trans, tutte le sere appunto andavano a picchiarle, spaventarle, coltelli, armi, finché una sera, racconta Loredana, si misero d'accordo, appunto si organizzarono, scesero tutte con mazze, pentole, cucciarelle, insomma, alla napoletana, mo ce vo', armi, diciamo, regolate alla napoletana. In the way we like it. Esatto. Si fecero trovare a un certo punto, appunto, della strada, uscirono tutti insieme, i fascisti non tornarono più, se ne andarono, e la cosa che, molto bella, appunto, è la sua frase, cioè, meglio sor e cangel, casor e campana. Cioè meglio sorelle in carcere, mm-hmm, in cangel, piuttosto che sorelle di campane, nel senso che sarebbero state al Camposanto perché, mm-hmm, ci avrebbero uccise. E quindi questo restituisce pure molto, no, quella dimensione di sopravvivenza. Vado verso la conclusione, appunto, sempre citando Loredana Rossi, che alla stessa assemblea appunto parlò anche di quanto lei diciamo fosse contenta che negli ultimi anni, anche dal punto di vista dell'ondata femminista, certo, insomma, c'è stata una contaminazione tra il mondo femminista appunto e quello dei femminelli, e non è una cosa scontata assolutamente, appunto proprio per queste difficoltà, perché il grande quesito secondo me è perché se una figura che così cioè così potenzialmente può essere sovversiva e rivoluzionaria poi talvolta è refrattaria, no, ad entrare in ambienti radicali politici, e soprattutto come mai viene esclusa da quelle persone che riferiscono radicali. Ricordiamo sempre che essere esclusioniste is not radical. Esatto, exit se così è. e quindi questo in pratica, perché appunto qui vado verso la fine, sicuramente negli ultimi anni, soprattutto in Occidente, con le democrazie occidentali, anche diciamo dei vari governi di centrosinistra, eccetera, eccetera, abbiamo visto diciamo tutta una normalizzazione, no, ed un allargamento appunto della comunità LGBT nel sistema appunto statale, e unioni civili, matrimoni egualitari, possibilità di adozione in certi casi, tutto bello, quindi parliamo di diritti civili, vabbè, il PD in pratica, ce lo possiamo dire, prima appunto parlavamo di Beppe Sala, quindi stasera ritorna, e tutta questa roba qua però, sì, da una parte è bellissima, forse per alcuni, perché fa vivere meglio, però da una parte esclude ancora di più una fetta, esclude le soggettività eccentriche, quelle non binarie, quelle femmine, appunto le persone trans magari, e quindi questo perché? Perché c'è un regime, dicono alcuni studiosi, in particolare cito Lisa Dugan, c'è un regime appunto di omonazionalismo, cioè praticamente il neoliberismo che impone una vera e propria agenda sessuale, diciamo, intorno ai corpi, e che fa proprio tutte quelle stanze, tutto quello, diciamo, spazio di manovra, di scelta, di movimento che in realtà sarebbe proprio del corpo, e quindi c'è anche una certa normalizzazione, diciamo, dell'omosessualità, a patto che, diciamo, tu sia ancora produttivo e rientri nel sistema. In questo senso si può scappare da questa roba, è appunto un po' il quesito. Antonia Anna Ferrante, appunto studiosa femminista dell'Orientale, compagna e professoressa, che si definisce attivista terrona, transfemminista e queer, dice che forse a questo regime di omonazionalismo, per l'appunto, che riguarda quindi, diciamo, il nuovo ordine coloniale fatto da razzismo, omofobia, però diciamo in salsa più larga, perché ovviamente più allarghi il sistema, quindi più inglobi gli omosessuali, soggettività, più funziona. C'è una strada, diciamo, per fuggire da tutto questo, e la sua prospettiva è quella di mostre terrone femminelle, cioè la possibilità di provincializzare l'idea di queer, e possiamo dire, diciamo, di riscrivere tutte quelle storie escluse dalla storia, qua sto leggendo lei, per tessere dei legami affettivi e di complicità che somigliano a quelli di altre geografie che la linea retta non conosce. E quindi, diciamo, sicuramente, nonostante il mondo dei femminili stia scomparendo e stia eclissando, è paradossale, però anche sicuramente buono sintomaticamente il fatto che sia stato incluso nelle lotte finalmente, che stia rivendicando un certo spazio. La risposta in questo senso è proprio, diciamo, in quell'ambito, a mio parere ovviamente questo, diciamo, in quell'ambito ibrido fatto da accademia e attivismo, che è quello che magari può interrogarsi su quelle cose, su alcuni temi, poi magari contaminando le lotte. Sì, pazzesco, grazie mille Gianni. Grazie. Molto molto bello. Io direi che sulla frase vai. Posso? No, ma... sì. No, volevo fare una domanda, ma io ho letto un libro, sì, perché qualche volta leggo un libro, però ho letto un libro che si chiama Pornage, non credo che sia un libro particolarmente letto da tanti e tante e tanto, infatti già dalle vostre facce, perché qua siamo in videochiamata, quindi ci vediamo, anche se siamo lontani ci vediamo. Vabbè, comunque ho letto questo libro in cui si parlava anche di femminielli, cioè si parlava di tantissime cose e anche di loro, e adesso la mia domanda è, ma a Napoli quanto è accettata, e non so se sia la parola migliore, però cioè, perdonatemi per capirci, ma quanto sono accettati nel tessuto sociale? Allora, se facciamo riferimento storicamente alla figura di, appunto, a questa figura, sicuramente sono molto accettati, nel senso che pur sicuramente rivestendo una posizione di subalternità, magari anche un po' folcloristica, macchiettistica, eccetera, eccetera, però tradizionalmente sono molto legati. Poi noi dobbiamo pensare che questa figura in particolare si sviluppava nei piccoli paesi, magari dell'entroterra campano, come Pagani, in provincia di Salerno, dove appunto c'è una tradizione molto forte dei femminili, oppure ad esempio nei quartieri spagnoli, no? Che è proprio l'emblema, diciamo, della napoletanità, dei vicoli, ma anche della povertà, della disoccupazione. E questo perché? Perché queste figure fanno parte, ovviamente, tramite, diciamo, un modo di, come dire, condivisione di redditi, economie, diciamo, gestite in modo il quartiere, perché quella funzionava prima, soprattutto così, anni 50, 60, 70, anni in cui i femminili, diciamo, erano molto presenti nella cultura napoletana e nella città, e quindi, diciamo, c'era questo scambio. E poi il fatto che a me, come dire, politicamente, ovviamente sono ironico, cioè nel senso parlo sempre dalla prospettiva appunto da salotto, dall'accademia, da chi sta dentro, anzi da chi sta fuori in questo senso, mi dava, cioè nel senso restavo un po' male del fatto che loro fossero, cioè siano anche molto conservatori in questo senso. Loro sono cattolici, estremamente cristiani, si rifanno anche a tutta una fenomenologia, diciamo, i crocifissi, i santini, un po' come la camorra, no? Che c'ha tutto, diciamo, un'affezione verso il mondo spirituale. però non sono la camorra, ovviamente. No, no, non sono la camorra, però per dire, diciamo, quell'ambiente tradizionale. Sì, sì, no, certo, comunque c'è un'affinità tra quelli che sono gli scenari tradizionali, e magari anche per questo c'è sempre stato un'accettazione, se abbiamo fatto passare il termine, sì. Anche a livello più mainstream, ma cioè io ricordo che ci sono state miei amici che mi hanno raccontato che nel loro coming out con la famiglia, la figura, il fatto che si stesse a Napoli, la figura del femminello, avesse aiutato anche sul fatto di... Perché appunto a livello... come posso dire? Ecco, cioè quello a cui volevo arrivare era questo, che al di là di tutto, il fatto che sia storicamente esistito in un contesto che comunque è stato vessato da una narrazione di costruzione dell'alterità, Napoli, cioè Napoli è stata vessata da Napoli il meridione, ma in particolar modo stiamo parlando di Napoli, dell'intersoggettività di Napoli, che è il femminile in questo momento, quindi l'analisi di studio coloniale, vogliamo portarla lì, che è stata appunto soggetta ad una tipologia di narrazione, al proprio interno ha delle certezze identitarie su cui inevitabilmente si deve aggrappare e si è aggrappata giustamente per una forma anche di resistenza ontologica, a parer mio. E grazie e in virtù a un terzo genere, cioè a questa enorme discontinuità rispetto ai Savoia, che ne so, cioè, capito se è di quello che vogliamo parlare, cioè, e questa roba rende più facile l'accettazione di un qualcosa che in una città tipicamente cattolica, bianca, perché comunque siamo bianchi, una città cattolica, bianca, occidentale, non dovrebbe succedere. Cioè non è solito che succeda. A Bari già non succede. Cioè quindi può essere che per il fatto che comunque rientrano in un regime di verità che può essere per esempio quello del cattolicesimo, rientrando almeno in uno di questi... questa cosa ha permesso che venissero comunque accettati, visto che abbiamo accettato. Sì, secondo me la cosa veramente figa è che nonostante il potenziale distruttivo condivida dei valori così tradizionali che quindi vanno completamente, cioè di per sé vanno a distruggere le basi di un'esclusione fatta sui generi. Perché? Perché siamo tutti figli di Dio, cioè un nuovo Dio, non sto dicendo questa cosa veramente in una radio, però nel senso, e secondo quella roba lì, cioè noi siamo abituati già ad aver visto una narrazione che ci ha voluto vittime, che ci ha costruito. Sappiamo che però esiste un'altra cosa qui, e lo sappiamo perché abbiamo la realtà dei fatti, che è una realtà di comunità, cioè una realtà fatta da persone che formano una comunità da secoli e secoli. Ci sono prove storiche di questa alterità. Quindi è proprio... Sì, quello che dici mi fa pensare al fatto che loro, come accennavo prima, sono molto spesso contro le rivendicazioni politiche della comunità LGBTQ+, diciamo, dei movimenti in questo senso, proprio perché il proliferare, la proliferazione appunto di molte etichette, ovviamente sto dicendo etichette in accezione neutra, non associativa, sì. Cioè per loro è problematica, cioè loro dicono no. A parte perché rivendicano questa alterità, questo terzo genere, che è uno spazio tutto loro, ibrido, e poi perché comunque appunto loro, anche dal punto di vista magari del lavoro di cura, di tutti quei lavori, diciamo, che si appunto tipicamente svolgono le donne in famiglia, loro si prestano molto, anche a livello, diciamo, del quartiere, sì, della zona in cui vivono. Certo, fanno un lavoro di rete di comunità, cioè cura comunitaria, giustamente. Cioè, come, è proprio il mondo anticapitalista, capito? Cioè, cioè per quanto appunto riconoscono dei valori tradizionali e comunque nelle pratiche, che poi è un qualcosa di iper sovversivo. Interessante. Sì. Poi pazzesca la frase, comunque, Melchior. Ah, sì. Ma il meglio sorelle quella top si dovrebbe scrivere a Milano Sud, no? Sì, adesso possiamo pensarci. Ciao Digos. Ciao Digos. Va bene, allora mentre noi Va bene. organizziamo il piano quinquennale e organizziamo tutte queste cose, io direi che i nostri ascoltatori Si meritano possono, una canzone. esatto, sono stati molto bravi e bravo perché ci hanno ascoltato fino ad adesso e quindi per loro c'è Come di Jane. Yes. Yes. Faze me, baby, light up my days. Give me something crazy with a regular taste. Bittersweet, baby. Bittersweet, baby. Picking daisies for something that's probably fake. I probably hate. Look at it right there, all vivid, so clear. But I don't wanna see it, nor do I wanna feel it. But try to feel it fully, keep those rules bent. I don't need your 2 cents, all of it a nuisance. I don't need your blueprints for some makeshift relation disillusion. Floating on the surface like I am, no urges. I am bored. Balance go back and forth. Conclusion, I can't afford this sort of thing. I guess, ma'am, I can be your yes man. You give me artist power. Superficial, but I like it. You so divine. Too sweet for a world like mine. All the niggas seek is change. Some different, some strange. A smile on my face. Ain't nothing can face me, baby. Light of my days. Give me something great. With a regular taste. Bittersweet, baby. Bittersweet, baby. On every new dime I'm bugging, slipping, tripping over nothing. Rise up and fall again like sun do. 3,000 mazes off the top, I gotta run to. Come through. Hit your aura with that kung fu. 1, 2. I give you that shit that you can jump to. You give me artist power. Superficial, but I like. Mine. All the niggas seek is change. Some different, some strange. A smile on my face. somewhere we can go, far away from everyone we know. I know somewhere we can go, far away from everything. I know somewhere we can go, far away from everyone we know. Bene, è stata una bella pausa musicale e adesso siamo tornati. necessarie, ci voleva. Esatto, un attimo rilassati e un po' che abbiamo tutti un po' metabolizzato le parole che sono state dette fino ad adesso. E adesso Maya ha in serbo per noi un'altra cosina. In ultimo, per finire, chiudiamo, come si suol dire, ad anello, perché già citava il nostro amico Johnny, l'Antonia Anna Ferrante, che è una studiosa attivista per una trans femminista queer, dottore di ricerca in studi culturali e postcoloniali del mondo anglofono all'orientale di Napoli, e leggeremo un pezzo del suo libro. Un libro editato da Minimis Edizioni del marzo 2019, che appunto si chiama Pelle Queer, Maschere Straight. Allora, diciamo che il libro vuole delineare i tratti di un nuovo regime di visibilità omonormativo, si legge nella prima di copertina, per i soggetti queer attraverso un'analisi critica di alcune tra le più popolari serie televisive in onda negli ultimi anni. Il regime di visibilità, ovvero l'insieme delle norme che regolano la rappresentazione di alcuni soggetti, viene in questo caso qualificato come omonormativo, poiché descrive la traiettoria e la similizzazione dell'omosessuale nel cosiddetto mainstream, il regime culturalmente e politicamente egemonico per eccellenza. Un tempo considerati tra i soggetti più destabilizzanti per l'ordine della società, oggi gay e lesbiche sono diventati assimilabili, perché funzionali, al progetto di rifondare l'Occidente nel sistema neoliberista. Il regime di visibilità omonormativo fa quindi parte del progetto di normalizzazione del soggetto LGBT nel capitalismo occidentale. La ricerca, attraverso un'osservazione critica delle serie TV, si sofferma soprattutto sullo studio dei legami e della parentela, introducendo l'opportunità di pensare alla traiettoria queer in una prospettiva relazionale. Questo punto di osservazione permette di considerare nella teoria queer la produzione di pratiche che contestano la normalità delle relazioni, non limitandosi quindi alla sola possibilità di performare il corpo e l'identità oltre la norma. In questa ricerca, a tratti personale, tra l'intimità, la cura e gli affetti viene praticata una svolta queer, con la quale possiamo rileggere i legami di parentela, destabilizzandone, la classica relazione con il simbolismo della rappresentazione. Quindi, diciamo, chiudiamo a bomba, continuando a parlare di rappresentazioni, di costruzioni di identità e costruzioni sulla base di rappresentazioni, in particolare di soggettività queer e non normate. E allora, a me, io volevo appunto leggere un pezzo significativo di questo libro e appunto che riguarda, e poi verrà appunto, come posso dire, il pezzo da me introdotto verrà seguito da una lettura in napoletano, perché non mi sarei potuta permettere, perché ho un mix di accenti e di robe in testa che manco mazzardo, veramente, cioè livello 99 posti per quanto mi riguarda di napoletano. E quindi questa è la poesia di Ciro / Ciletta Cascina, che diciamo, fa parte del suo repertorio di improvvisazione, che più che un reale repertorio letterale, un reale syllabus. Leggo la parte introduttiva e poi partirà una registrazione, ovviamente. Le nostre stesse biografie ci hanno messo in condizione di ripensarci come terrone. In questa prospettiva emerge nello spazio transfemminista queer l'esigenza di appropriarsi del termine terrona con uno spirito tutt'altro che identitario. Né tantomeno a questo posizionamento corrisponde un desiderio di equiparare forme diverse di razzializzazione di pratiche e soggetti diversi, che annullino i privilegi della bianchezza e della cittadinanza. Femminella, femminiello, femminè, mezzo femmine, come recita Ciro Ciletta Cascina, nate da un segreto nella schiuma del mare all'ombra del Vesuvio, come Partenope, la sirena, l'ibrido divino e mostruoso che rappresenta la nostra città. Beh, si sta caricando. Doveva partire immediatamente. Ok. Non si crede che sia un fumo. No, mi sa che c'è qualcosa che non va. Scusate. Adesso, vabbè, doveva essere un bellissimo effetto radiofonico, va a partire subito, ma ovviamente c'è sempre qualcosa che non va per il verso giusto. No, ok, voi mi sentite, è corretto, ok, però c'è la... Sì, ti sentiamo, chiedevamo solo se i microfoni fossero accesi. In che se... No, sì, sì, ma è tutto acceso, solo che la poesia non è partita subito perché c'è un problema con... Perfetto, vogliamo rifarlo e poi lo tagliamo per il podcast. No, no, no, adesso stavo aprendo l'archivio multimediale di Radio ZM, dove abbiamo tutti i vinili con tutte le registrazioni poetiche e yes, lette proprio dagli autori stessi. Gli autori, più o meno. Esatto, anche perché nella stessa... perché noi, cioè, dovete sapere, per chi ci ascolta, che abbiamo proprio una stanza di vinili e registrazioni appunto di autore, e quindi insomma ci si mette sempre un attimino a trovare, a ricercare, perché, tra, esatto, i diversi, esatto, 45 giri, 33 giri, poi lo sapete, no? Cioè, dovete immaginarvi tipo, sì, una stanza alla Harry Potter, alla Hogwarts, piena di libri, piena di dischi, di vinili, di registrazioni. I libri, sì. Cioè, tutto proprio... ciò che citiamo è lì. Esatto, mm, con scale e che compare, si spostano. Esatto. E poi... Scale che si spostano, si muovono da sole scatole. Esattamente. E poi anche, ovviamente, c'è sempre una figura un po' bibliotecaria, un po' disc jockey, che ovviamente... è nel suo loop, nel suo mondo, e non sempre recepisce quando chiedi aiuto per trovare un pezzo, un brano, una poesia, e quindi bisogna sempre un po' prima anche risvegliarla dal suo mondo. E di, esatto, assolutamente, cultura. Si può dire che è come se fosse l'incantesimo uscito male, fatto da Dargen D'Amico, tra le scale che si muovono e accio le cose. Esatto, esattamente. In versione disco funk, preciso. E quindi niente, adesso io mi trovo esattamente in questa stanza, le scale sono birichine, quindi sappiamo benissimo che mi portano dove vogliono loro. Dove vogliono loro? Sì, è certo, non dove vorrei io, e quindi devo stare un po' attenta a trovare l'incastro giusto. E però devo dire che mi sto avvicinando alla sezione... alla sezione giusta. Alla sezione registrazioni. Esattamente, partenope. Esattamente. Quindi... Ciro barra Cirella. E sto salendo i gradini di questa scala. Molto... Intanto io continuo a ricordo che il titolo di questo libro è Pelle queer e maschere straight, e ovviamente riprende il titolo dell'opera di Frantz Fanon, Pelle nere e maschere bianche, che è un libro che abbiamo overcitato nelle nostre puntate, parlando di colonialismo e non colonialismo, però fa sempre bene, diciamo, ricordarlo, perché tanto alle scale piace girare, alle scale piace cambiare, quindi perché non parlare di Frantz Fanon nel frattempo? Sì, tra l'altro questo libro è molto molto leggero, cioè nel senso ti traduce dei concetti ovviamente molto pesanti, però da un'analisi pop, tipo, a me è rimasta impressa quando lei parla di una puntata di RuPaul della quinta stagione, sempre, diciamo, in virtù del fatto di come ormai gli omosessuali siano funzionali al capitalismo, e per esempio RuPaul in un passaggio durante la guerra militare appunto in Iraq degli Stati Uniti d'America, dice RuPaul: ringraziamo i militari al confine perché stanno combattendo per la nostra libertà di vestirci in drag. Cioè, sì, questo è significativo di come... Proprio homo-nationalismo. Esatto. E cioè, e a questo proposito è arrivata, sono arrivata. È arrivato, quindi ci riproviamo. Quindi ci riproviamo. Il bello della diretta, ragazzi. Allora. E quindi ascoltiamo questo. Ripeto, il pezzo è... Ma ricomincio a leggere? Come preferisci. Facciamo l'effetto, proviamoci, secondo me nel podcast. Allora, le nostre stesse biografie ci hanno messo in condizione di ripensarci come terrone. In questa prospettiva emerge nello spazio transfemminista queer l'esigenza di appropriarsi del termine terrona, con uno spirito tutt'altro che identitario. Né tantomeno a questo posizionamento corrisponde un desiderio di equiparare forme diverse di razzializzazione, di pratiche e soggetti diversi, che annullino i privilegi della bianchezza e della cittadinanza. Femminella, femminello, femminè, mezzo femmin, come recita Ciro Ciretta Cascina, nate da un segreto della schiuma del mare all'ombra del Vesuvio, come Partenope, la sirena, l'ibrido divino e mostruoso che rappresenta la nostra città. Non si crede che stiva un fumo mare, zitte zitte se ne fuiette, per s'abbracciare con sole d'oro e con luna argente. Passai lo tempo e dopo 9 mesi, come femmina prena, una stella partorette in coppa un scoglio e un femminello. Bello come bello sole, frecceccuso come frecceccusa luna, misterioso come misterioso mare fun, sta creatura nuova e vecchia insieme, portai allerezza e suggezione come tutte cose sacre di sto mondo, che mentre te scarfano cor, te fanno venire o frid in gola. Questa era. Yes. E, va bene, allora, giustamente siamo le ribelli, giustamente, visto che siamo le ribelli, abbiamo problemi tecnici, perché siamo ribelli anche tecnologicamente. E sempre, comunque. Il No Global ci hanno costruito una carriera, sostanzialmente. Esatto, vero. E quindi, insomma, dovete, cioè, piacciamo per questo e dovete accettarci così, per quello che siamo. Stacce, stacce! Va bene, allora, c'è ancora... possiamo concludere questa fantastica puntata, mm-hmm. ma prima, non potendo dare un appuntamento ribelle ancora, mm-hmm. diamo un appuntamento più vicino, esatto, che appunto... che è quello di Non Una di Meno, Milano, che avrà assemblea il sabato 19, intanto Maya, tu mandami messaggi visivi, audiovisivi... Sì, sarà verso l'8 marzo, ci sarà un incontro per costruire appunto lo insieme allo sciopero globale dell'8 marzo. Quindi, sabato 19, ore 14, in via Festa del Perdono, aula 208 all'Università Statale di Milano. Yes. Quindi ci rivedremo, ci risentiremo lì. Cioè non come ribelli ma come persone, ovviamente come persone, questa serata va sempre meglio. Questa diretta sempre meglio, abbiamo visto i peggiori, dai. Questo è molto vero, purtroppo. È molto vero. E quindi mandiamo l'ultima canzone, con questa ci salutiamo. Saluto le nostre voci di oggi, Jonathan e Maya. Wow. E salutiamo tutte le ribelli, salutiamo il Papa, salutiamo Beppe Sala, salutiamo anche sempre, anche il Mossad e tutto. E quindi ci risentiamo. Tutte le persone che abbiamo con cognizione di causa insultato. Esattamente. Vi vogliamo per niente bene. Quindi buon ascolto. No. Buon ascolto. Stay rebel. Stay rebel.